ti morde col suo swing, è assai facile al knockout che ti furina sul ring, fa l'effetto di uno show e perciò canto così. Oh oh oh oh oh oh, il tuo bacio è come un rock. Uno solo ne vale almeno tre, e per questo bambina tu mi piaci, e dico va, va, baciami così. Il tuo bacio è come un rock e ti morde col suo swing, è assai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno show e perciò canto così.